mi cambia in digitale, divento rosso, emozione e mi emoziono, come manager il suono, campiono un tuono, perché mi sento solo, altro che Ted, la droga manco più, poco ma quel vuoto, lo faccio per chi voglio farlo, perché tutto quel che avevo l'ho lasciato andare, perché avevo da fare se non uscivo, non ci riuscivo, facevo un giro, la prendevo tanto grossa, la maglietta rosa, amico manco te lo dico, quanto odio il mio tabacchino, è quello che continuo a vendermi, faccio prima smette, prima che manette, credimi abbandono quei sogni da ragazzino, scrive non ci credo, mi compiaccio, non ti piaccio, poco ghiaccio, in quel zinc piece bevo lì, show calore alcol, cambio strada, sta stronza non mi serve un cazzo, è una sbandata. Che ne sai di me, cambia la sorte, solo la morte, mica apre le porte, finché respiro mi sento forte, se il meglio è dentro le mie scarpe, che ne sai di me, che ne sai di me, me, che ne sai di me, cambia la sorte, solo la morte, mica apre le porte, finché respiro mi sento forte, se il meglio è dentro le mie scarpe, che ne sai di me, che ne sai di me, che ne sai di me, cambia la sorte, solo la morte, il mica per le botte, finché respiro mi sento forte, se il meglio è dentro le mie scarpe, che ne sai di me, che ne sai di me. Fuori, vedi le marche, se il meglio è dentro le mie scarpe, che ne sai di me, le tipe mo, ce le lascia agli altri, fuck bigotti, voglio quell'altre, non quelle piatte, voglio le scaltre. In maestri sacchetti, fac pieni piatti, fac purotti, le mie scarpe camminano, io cambio strada, vita sbagliata, colorata, perché è spericolata, nessuno l'ha mai scelta, ma si ama e non l'ha mai cambiata, tendiamo un braccio a chi manca di coraggio, a quel ragazzo come me che invece ne ha da vendere, ma è troppo umile per farlo, lo trovi strada a regalarla, perché ama registrarla, ama cantarla, ama produrre, ama che è difficile farlo. Che ne sai di me? Cambia la sorte, solo la morte, mai capre le porte, finché respiro mi sento forte, se il meglio è dentro le mie scarpe. Che ne sai di me, che ne sai di me, che ne sai di me, cambia la sorte, solo la morte, manca per le porte, finché respiro mi sento forte, se il meglio è dentro le mie scarpe. Che ne sai di me, che ne sai di me, che ne sai di me, cambia la sorte, solo la morte, manca per le porte, finché respiro mi sento forte, se il meglio è dentro le mie scarpe. Che ne sai di me, che ne sai di me.